Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, 7 e 36 minuti, ben ritrovati, il buongiorno del weekend su Radio 24, stiamo insieme fino alle 10, un'occhiata veloce tra pochissimo alle pagine del giornale di oggi. Una rassegna stampa, l'ultima di attesa, che domani mattina per questo voto che ci sta sfibrando finalmente, poi insomma parleremo d'altro, da lunedì riparleremo naturalmente del voto, del risultato del referendum, ma poi come per incanto torneremo anche a parlare d'altro. Poi comincia Si può fare dopo il giornale radio delle 8, se volete fin da subito interagire con noi in tempo reale 349-238-6666 per i vostri sms, anche su WhatsApp, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24. Cominciamo, vai. E allora, giornali che appunto sono occupati anche oggi, naturalmente, dagli ultimi appelli per il voto di domani, per il referendum, sfida finale da tutte le parti sui titoli dei giornali di oggi, giornali che in alcuni casi scelgono proprio di aprire a tutta pagina con appelli per il voto. È la scelta per esempio di due giornali d'orientamento politico opposti come Il Fatto Quotidiano e Il Giornale, che entrambi aprono con un no a tutta pagina, e poi naturalmente ci sono scelte più sfumate da questo punto di vista. Cominciamo con i titoli, per esempio Il Corriere, sfida finale sugli italiani all'estero, Il Corriere sceglie quindi di occuparsi di questo aspetto. Berlusconi che dice temo i professionisti dei brogli, e c'è un'intervista sul Corriere proprio a Berlusconi. Renzi che chiarisce con il sì non ci saranno elezioni anticipate, perché insomma qualcuno aveva voluto togliere questo argomento nelle mani di Renzi, cioè che il sì sarebbe una garanzia di stabilità. Aveva detto Salvini no, Renzi vedrete che anche se dovesse vincere il referendum andrà alla conta con i suoi oppositori all'interno del PD e proporrà comunque un rimpasto in virtù di questo, o anche elezioni direttamente, di questo risultato favorevole. Renzi sgombra il campo da questo argomento e dice con il sì non ci saranno elezioni anticipate. Del Rio, se vince il no il premier andrà da Mattarella, questo è un elemento importante. Grillo a Torino, paese spaccato, chiunque prevalga. La Stampa, referendum assedio a Renzi, è il titolo principale. Gli ultimi comizi, D'Alema e Salvini che dicono bisogna vigilare sui voti all'estero. Il premier, in gioco c'è il nostro futuro. Grillo parla di un paese spaccato e Berlusconi evoca i brogli. Repubblica, Renzo, Grillo, Renzi, Grillo, il rush finale. Lo scontro quindi secondo Repubblica è fondamentalmente tra Renzi e Grillo. Dicevamo, Il Fatto Quotidiano, orgogliosi di votare no. E c'è la foto di cosa? Dell'accozzaglia, avrebbe detto Renzi. C'è la foto di da Sabrina Ferilli a J-Ax, da Zagrebelsky a Camilleri, Andrea Camilleri, tutti personaggi nel mondo dello spettacolo, anche Zagrebelsky, Rodotà, nel mondo della politica in qualche modo. Le dichiarazioni di per esempio Camilleri, che dice le riforme le voglio, il Senato deve controllare la Camera, non esserne il doppione, ma questa riforma è pasticciata. E poi Il Giornale che scrive no, un no azzurro a tutta pagina, facciamo vincere l'Italia. Anche qua intervista a Berlusconi, per non togliere sovranità ai cittadini con un Parlamento di nominati diciamo no, per evitare una riforma costituzionale che avvantaggia solo Renzi. Perché non vengono tagliati gli sprechi dello Stato centrale. Queste sono le ragioni del no da parte del giornale. Il Manifesto, un altro giornale che qui siamo ancora su un altro taglio, Quotidiano Comunista, che dice no signore, i classici titoli del Manifesto, con Renzi in primo piano. La campagna referendaria più lunga della storia si chiude con i comizi nelle piazze e le polemiche sul voto degli italiani all'estero. Volano le cifre sull'affluenza e già si evocano brogli. Grillo a Torino e Renzi nella sua Firenze scoprono fuori tempo massimo i toni bassi. E in effetti è vero, entrambi evocano lo scenario per loro negativo della loro sconfitta, cioè il sì per Grillo, il no per Renzi. E entrambi tutto sommato dicono che se ne faranno una ragione e non ci sarà il diluvio universale, non cadrà il cielo sopra di noi se loro dovessero essere sconfitti, cosa che fino ad oggi invece non è stata, perché i toni sono stati molto alti. È un po' questo anche un po' l'impegno, diciamo, che si sentono di dover prendere molti editorialisti, commentatori sui giornali di oggi. Luciano Fontana, direttore del Corriere, gli impegni da ricostruire, un clima, scusate, da ricostruire, gli impegni per il dopo voto, cioè si cerca di guardare al dopo e a dire, insomma, dal 5 dicembre comunque vada il risultato elettorale. Le istituzioni restano in piedi, il governo, il Parlamento saranno tutti lì, dovranno ricominciare ad affrontare i vari problemi, naturalmente con un elemento in più di valutazione, l'esito di questo referendum, ma insomma non crolla il mondo. La stampa fa un approfondimento sul tema proprio del voto estero, diciamo che un mini reportage da parte di Amedeo La Mattina, che è stato a Castelnuovo di Porto, dove vengono raccolte le schede che arrivano dall'estero. La vittoria del sì e del no, scrive, si potrebbe decidere negli stanzoni anonimi con il pavimento di linoleum e le mattonelle bianche di questo gigantesco deposito alle porte di Roma sulla via Tiberina. È qui dunque che stanno le schede. Siamo entrati, scrive il cronista della Stampa, nel centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, dove domani sera 6.000 scrutatori divisi in 1.500 seggi apriranno le schede che stanno arrivando da tutto il mondo, almeno da quei paesi dove ci sono italiani regolarmente iscritti negli elenchi elettorali. E si parla di quasi 4 milioni di italiani iscritti a questi elenchi. Ed eccoli qua i sacchi con su una scritta circolare. Ministero degli Esteri, Corriere Diplomatico, vengono scaricati dai camion che arrivano da Fiumicino, scortati dalla polizia, vengono controllati uno ad uno da funzionari dell'ufficio circoscrizione estero della Corte d'Appello di Roma, ammucchiati nazione per nazione di provenienza. E così abbiamo capito quei girofanno dove si trovano, in questo deposito alle porte di Roma. Dentro questi sacchi, arrivati da 195 sedi diplomatiche e che hanno viaggiato su 210 aerei accompagnati da funzionari della Farnesina, ci sono quelle schede che possono cambiare il corso della politica, cioè si ammucchieranno con tutte le altre e naturalmente avranno il loro peso. Hanno votato in tanti, scrive la Stampa, tantissimi, i nostri connazionali all'estero, quasi 1.600.000, il 40% degli aventi diritto, un boom di votanti che ha fatto insospettire i nemici di Renzi. Questa è insomma la realtà. Per valutare questo 40% di affluenza tra gli italiani iscritti agli elenchi elettorali all'estero, bisognerebbe vedere quanti hanno votato alle scorse politiche, quanti hanno votato agli scorsi referendum e via andare. Adesso io non ho il dato sotto mano, però insomma potete farlo voi se volete, tenete a mente questa cifra: hanno votato il 40% degli italiani all'estero, che poi sarà anche da confrontare con quanti invece italiani in Italia andranno a votare. Già, questa è anche una grande incognita. Ci sarà un'alta affluenza? Cioè l'esito di questo dibattito infiammato, infuocato, che è durato quasi 6 mesi, spingerà poi gli elettori a andare a schierarsi di pancia o di testa, vedete voi come preferite, oppure alla fine l'effetto sarà un rifiuto, sull'onda anche del rifiuto un po' della politica e dei politici soprattutto, che insomma va discretamente di moda negli ultimi tempi. Questo sarà un elemento da tenere sicuramente sotto controllo, l'affluenza. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo di nuovo con il giornale di oggi, ancora titoli e notizie sugli ultimi appelli per il referendum, ma anche le banche popolari con la bocciatura del Consiglio di Stato di una parte della riforma Renzi e altre notizie tra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Allora, eccoci qua, 7:47 minuti, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, c'è un ascoltatore di cui non faccio il nome, che al 349-238-6666 fa una richiesta. Non faccio il nome perché questo ascoltatore già scrive tantissimi sms e si firma. Allora, se non faccio il nome perché sennò poi si monta la testa e ne scrive degli altri. È già intasa abbastanza la posta elettronica, diciamo la ricevitoria degli sms qua a Radio 24. Chiede di parlare del rapporto del Censis. C'è. Ci arriviamo tra un attimo sui giornali di oggi. C'è. Fatemi finire però prima un ultimo aspetto che riguarda il voto su Repubblica. Le due fronde vengono messe a confronto all'interno degli schieramenti, per semplicità, diciamo di centrosinistra la fronda del no e nel centrodestra una fronda invece del sì. Ecco i nomi, i volti di chi si è schierato in dissenso rispetto alla maggioranza del proprio schieramento. Naturalmente a sinistra sappiamo che c'è Bersani, che guida il fronte del no, Michele Emiliano, presidente della Puglia, Susanna Camusso della CGIL, Monica Guerritore, attrice e insomma simpatizzante della sinistra democratica, girotondina, eccetera. Invece per quanto riguarda il centrodestra ci sono Vittorio Feltri, che in un editoriale ha detto che si asterrà da questa rissa, non andrà a votare. Briatore invece ha detto chiaramente che voterà per il sì. Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, ha lasciato trapelare le ragioni del suo sì, ha definito Renzi un ragazzo di 40 anni che ha le qualità di Berlusconi. Ferrari, che questo è un endorsement che non so quanto sia controproducente per Renzi, ma insomma Giuliano Ferrara, che ha scritto insomma che sosterrà il sì al referendum. Allora andiamo sul rapporto del Censis velocemente, se ne occupano. Allora, intanto no, l'altro titolo principale di oggi è quello sulla questione della riforma delle banche popolari, sospesa, scrive il Corriere, il caso dei rimborsi ai soci, anche il Sole 24 Ore gli dedica il titolo principale, banche popolari, stop del Consiglio di Stato, sotto esame il recesso per Tesoro e Banca Italia, però la riforma non si ferma, succede che la legge sulla riforma delle banche popolari verrà sottoposta all'esame della Corte Costituzionale, scrive il Sole 24 Ore, per i profili di parziale incostituzionalità legati alla possibilità di rinviare o sospendere sine die il rimborso del diritto di recesso ai soci nel momento della trasformazione in SPA. L'ha annunciato il Consiglio di Stato nell'ordinanza con cui ieri ha sospeso la circolare della Banca d'Italia, un po' complesso, ma insomma abbiate pazienza, attuativa della riforma proprio nella parte che riguarda il diritto di recesso. Per il Ministro del Tesoro, la Banca d'Italia, la riforma però va avanti. Nel frattempo, scrive il Sole, la gran parte delle banche popolari maggiori ha già deliberato la trasformazione in SPA. Ma, dicevamo, il rapporto Censis se ne occupa sempre il Sole 24 Ore in prima pagina. L'Italia del risparmio sommerso, i giovani più poveri dei nonni. 50° rapporto del Censis. Il paese regge ma ha poca fiducia nel futuro. L'analisi di Rossella Bocciarelli, anche altrove se ne occupano i giornali, per esempio la Stampa intervista lo stesso De Rita, e il quale De Rita, se lo trovo, aspettate che ve lo faccio vedere, dice presidente del Censis, abbiamo paura del futuro ma gli errori sono del passato, non sarà una legge a salvarci, scrive De Rita. Questo risultato è in parte conseguenza di un fenomeno la gente ha paura del futuro e risparmia sempre di più, scrive De Rita. Infatti, secondo questo rapporto dal 2007 ad oggi sotto il materasso, per dirne una, sono 114 miliardi di euro. Il 61% degli italiani è convinto che il reddito peggiorerà, quindi accantona. Più risparmio, meno investimenti, meno lavoro, ci lamentiamo dei tedeschi, è così la domanda del cronista della stampa a De Rita, che fa un esempio. Immagini che io sia un sessantenne, ho due appartamenti e mio figlio non ha voglia di studiare, non c'è niente di meglio che offrirgli di vivacchiare gestendo due bed and breakfast. Quindi colpa dei padri, purtroppo è molto peggio di così, gli errori vengono da lontano, lontanissimo. Vabbè, insomma, questa è una nota storia che ci tiriamo dietro da tempo. Questa è l'intervista di De Rita sulla stampa, ma insomma, su tutti i giornali di oggi trovate approfondimenti su questo. Andiamo per un attimo all'estero. Così per allargare lo sguardo, segreti e bugie di Hollande. Il libro che ha messo in crisi Hollande fino quasi a costringerlo a non ricandidarsi è un libro scritto da Gérard Davé e Fabrice Lhomme, reporter di Le Monde, che hanno incontrato, scrive il Corriere, il presidente francese 61 volte all'Eliseo oppure a casa loro, ottenendo un centinaio di ore di registrazione. Hanno scritto questo libro che si chiama Un presidente non dovrebbe dire questo. Verso la fine del colloquio viene fatto un esempio diciamo del perché poi Hollande è caduto così in basso. Verso la fine del colloquio chiedono ad Hollande del parrucchiere personale pagato 9.895 euro lordi al mese, cifra ufficiale. Serve forse a tingere i capelli, signor Presidente? Perché lei ha 62 anni e non ha un capello bianco. Hollande risponde anche a questa domanda, spiegando che si tratta di una leggenda. Non mi sono mai tinto i capelli, anche mio padre ce l'aveva così. Chiederò un test del DNA, dice Hollande, per dimostrare che ho i capelli non tinti. Siamo a dei livelli veramente bassissimi e infatti, prosegue l'articolo del Corriere, quando gli avversari, eppure i compagni di partito, accusano Hollande di avere svilito la funzione presidenziale, si riferiscono a questo genere di confidenze ed altre che ha fatto durante il suo mandato in passato e anche a questi due cronisti di Le Monde che hanno scritto il libro, dichiarazioni che vanno dai magistrati vigliacchi, calciatori privi di valore o quando ha detto che doveva liquidare il suo partito, insomma tante frasi, tante gaffe anche, ed ecco che Hollande all'indomani della storica rinuncia a cercare un secondo mandato, gli autori di questo libro dicono che è stato proprio questo libro a creare le condizioni perché il presidente non potesse più ricandidarsi. Vabbè, se sia stato il libro o no, fatto sta che Hollande non si ricandida e questo libro, inchiesta su di lui, ne ritrae un ritratto da parte tra l'altro di un quotidiano come Le Monde, che non è sicuramente pregiudizialmente ostile ai socialisti francesi, un quadro veramente triste. In chiusura una notizia curiosa che viene dalla Francia. Chanel, il TGV rovina i nostri gelsomini, la nota Maison che minaccia di abbandonare la Francia perché un treno ad alta velocità sta per passare nelle zone, nella valle di Siagne, dove ci sono i campi di gelsomino e rose a perdita d'occhio che servono per produrre il leggendario Chanel numero 5 che anche Marilyn Monroe indossava prima di andare a dormire nuda nel suo letto. Quindi anche in Francia abbiamo un contrasto tra il passaggio di un treno e le comunità, in questo caso però Chanel stessa che minaccia di lasciare questo insediamento territoriale. Beh, è tutto, c'è il giornale radio, noi cosa si può fare, ci ritroviamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes. Nothing Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Quando sono le 8 e 20 minuti inizia una nuova puntata di Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24. Carlo, Milano, Monterosa. Per il momento c'è bel tempo, che poi ormai è sempre troppo presto per dire c'è bel tempo. Le sbagliamo molto queste previsioni e mi spiace. È colpa dell'orario. La vera notizia è che è l'ultimo giorno di campagna elettorale, quindi sì. Non mi puoi chiedere piove, sì, no, perché non potrei rispondere. Esatto, forse. Forse. Ni. 800 24 00 24, vi aspettiamo, cari ascoltatori, per stare con noi questa mattina, per raccontarci quello che volete, le vostre buone notizie della settimana. Per giocare con noi oggi vi chiediamo di raccontarci le bufale nelle, ma non quelle sul referendum, non quelle che dice Renzi necessariamente, no, anche perché non possiamo entrare in questo argomento, ma in generale sul web le bufale pre-referendum, perché ne esistevano anche prima, possiamo dirlo. Per esempio, una bufala che è girata durante la campagna elettorale di Trump e anche poco dopo è che Trump volesse togliere la Statua della Libertà perché alimentava l'immigrazione, cioè venite qua, il paese delle libertà, no? Questa notizia è circolata. È anche parecchio. Sì. Era ovviamente una bufala. Allora, di alcune si può sorridere, di altre ci si può incavolare, indignare. 800 24 00 24. Chiamateci, raccontateci le notizie in cui magari siete caduti, oppure che avete capito subito perché voi siete arguti. Esatto. Che erano delle bufale, ma che qualcun altro avrebbe potuto invece cascarci. Anche perché poi è proprio quello, la bufala diventa, non è semplicemente la notizia buffa o strana, ma è nel momento in cui viene ripresa da un organo ufficiale che ci casca come un pollo. Che ci casca. Quindi in realtà diteci i vostri, quelli che secondo voi erano, ma questa è sicuramente una bufala. Sì. Anche perché le notizie non mancano. Google e Facebook hanno annunciato pochi giorni fa di togliere la pubblicità, di non consentire di fare pubblicità, quindi rinunceranno agli investimenti da parte dei siti che pubblicano notoriamente questo genere di bufale, perché ci sono siti che si divertono proprio per questo, alcuni sono siti di satira e va bene, sono anche divertenti. Però l'importante è saperlo, altri invece hanno delle pretese di verità, siti tipo Il Giomale o Il Fatto Quotidiano, esistono queste cose? Assolutamente, è un grande classico, Il Fatto Quotidiano è un grande classico, perché lo leggi rapidamente e dici, ah vabbè, l'ha detto il Fatto Quotidiano. Sarà vera la notizia. Non sono nemmeno quelle la testata. Esatto. Poi c'è Twitter che ha annunciato un'ansia di ieri pomeriggio un filtro per verificare sul nascere eventuali bufale mediatiche. Quindi, insomma, stiamo sulla notizia, vi aspettiamo per raccontarci le vostre bufale. E in qualche caso magari vi faremo noi una domanda, vi leggeremo un paio di notizie. Ma valgono anche le bufale che uno racconta alla moglie, tipo per giustificare il fatto che è tornato alle 3 del mattino? Quelle di solito sono proprio bufale. Però sono divertenti anche quelle, anche se sono in ambito familiare, quelle valgono, dai. Valgono, soprattutto perché se vengono poi riprese da un giornale, allora a quel punto deve essere successo qualcosa di veramente grave. Molto grave. Iniziamo, 800 24 0024. Allora, cari ascoltatori, questi sono i Coldplay e proprio per il concerto dei Coldplay il 3 e 4 luglio dell'anno prossimo in Italia a Milano è scoppiato un caso di cui in realtà si parlava sotto traccia da tempo, quello dei biglietti per i concerti venduti online, subito rastrellati e rivenduti dopo poche ore a prezzi super gonfiati, stratosferici. Una truffa. Ne abbiamo parlato a lungo. Abbiamo parlato diverse volte anche noi. C'è un aggiornamento proprio di queste ultime ore, perché è stato accolto il ricorso contro questa rivendita online dei biglietti dei Coldplay. Ne parliamo con Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie per essere con noi, Trefiletti. E esattamente che cosa ha stabilito in prima istanza il Tribunale, credo fosse il Tribunale di Roma, su questa vicenda, Trefiletti? Beh, finalmente abbiamo giustizia rispetto a questa questione. L'avete chiamata truffa, io la chiamo truffa al quadrato, perché si rivolgeva poi soprattutto anche ai giovani. Certo. E quindi il Tribunale, su un'istanza fatta dalla SIAE e naturalmente dalla Federconsumatori, ha finalmente bloccato la vendita, ma non solo, questa è una cosa naturalmente positiva, ma anche detto chiaramente che qualora si fossero venduti ulteriori biglietti ci sarebbero state delle penali molto molto forti, di circa 2.000 euro a biglietto. Ed inoltre, ovviamente, questa sentenza permette a noi di poter dire ai giovani o comunque ai cittadini che hanno acquistato biglietti al bagarinaggio, perché così bisogna chiamarlo, di poter essere risarciti di quanto sono stati truffati. Ecco, è una sentenza, come giustamente nella conferenza stampa si è detto, è una sentenza tra le prime che si svolge su questo terreno in maniera così chiara, limpida e trasparente, ed è una cosa molto importante che naturalmente ci fa ben sperare di evitare nel futuro che ci siano cose di questa natura, che sono vergognose, che sono francamente dei veri e propri strozzinaggi, certo, nei confronti dei nostri giovani. Ma le faccio una domanda stupida, mi scusi. Siccome per il concerto dei Coldplay pare che in 2 secondi siano andati via assolutamente tutti i biglietti, adesso il concerto sarà vuoto, perché se i bagarini non possono rivendere questi biglietti, o sarà un concerto solo per bagarini con famiglie numerose, oppure dove finiranno tutti questi biglietti? No, assolutamente, perché naturalmente alcuni di questi biglietti sono già in possesso dei cittadini, perché noi siamo venuti a saperlo proprio perché i cittadini hanno denunciato questa cosa di un'abnorme crescita del prezzo, addirittura in esatto. Alcuni casi. Però, è arrivato a 1.500-2.000 euro. Trefiletti, la interrompo un attimo su questo, perché lei ha detto che questi cittadini che hanno già acquistato i biglietti a questo punto sono in qualche modo autorizzati a fare un ricorso per avere il rimborso. Bravissimo, proprio questo è il punto, e cioè i cittadini che sono in possesso, già alcuni cittadini, anzi parecchi cittadini si sono già rivolti a noi, primo denunciando e secondo ovviamente adesso si apre la strada di risarcimento. Per questo. Invece la domanda di Carlo era: gli altri biglietti che sono ancora nelle mani di chi fa i secondari ticket, dei bagarini, che fine faranno? Potranno essere rivenduti a prezzi più bassi o cosa? Ma devono essere riportati alla normalità. Alla normalità. Così come era stata indetta la campagna pubblicitaria con determinati costi, ecco, la stessa campagna deve essere quella che mette sul mercato i biglietti a prezzi appunto ragionevoli e non in secondari ticket, che è il mercato del appunto secondario che ha sviluppato questa speculazione micidiale. Credo che proprio bisogna ritornare tutto alla normalità. Sì. Ma non solo, la cosa importante è che questa sentenza permette che non solo si debba ritornare per questo specifico spettacolo dei Coldplay, ecco, ma nella prospettiva tutti gli spettacoli non devono essere attraversati da questa truffa, da questa vera e propria truffa. Ecco, la domanda però gliela devo fare su questo punto, perché chiaramente lo chiedo a lei, voi vivete di ricorsi e meno male che li fate, e ogni volta che vincete un ricorso su un caso specifico, perché chiaramente il ricorso si fa su un caso specifico, poi come dire, come se si aprisse una falla in una diga e a quel punto le cose possono cambiare in generale, ma lei ragionevolmente crede che questa sentenza, che nasce per il concerto dei Coldplay, possa avere effetto, possa veramente aprire a un cambio nella prassi, almeno per quanto riguarda l'Italia, su questo mercato dei biglietti sostanzialmente venduti a bagarinaggio? Credo proprio di sì, lei ha toccato proprio il punto che noi riteniamo essenziale. Ripeto, è importante che ci sia stata questa decisione del Tribunale di Roma che permetta appunto di far avere questa restituzione di questa truffa spaventosa, ma nello stesso tempo avere avuto questa sentenza permette naturalmente noi e la ringraziamo voi con la vostra radio che potete appunto dovuto espandere questa notizia, perché attraverso una comunicazione capillare che faremo anche nei nostri siti, noi abbiamo non solo il sito della Federazione dei Consumatori, ma abbiamo anche il sito dei giovani, abbiamo anche altri strumenti, come voi sapete benissimo, gli strumenti di comunicazione che i giovani hanno, l'abbiamo messo in rete questa notizia. E ecco, questa cosa è importante per la prospettiva, per il futuro, perché i giovani adesso sanno che i sistemi di bagarinaggio possono essere combattuti attraverso la denuncia e poi dopo la denuncia anche la restituzione qualora si verificasse, ma credo che sia questa sentenza è anche molto deterrente rispetto a ulteriori comportamenti nella prospettiva. Ma non ci sarà il rischio invece che qualcuno che per esempio ha comprato il biglietto e vuole rivenderlo perché non può andare quel giorno al concerto, che ricada all'interno di questa normativa, quindi che sembri un bagarino? Beh, santa pazienza, se c'è un problema di due giovani che si mettono d'accordo perché uno non può andare e il cugino, il fratello, il parente glielo compra, ok, ma quello è un problema fra due persone che non è che possono... No, però essere... tutto ciò avviene online solitamente, ovviamente, non è che... Non è che sto parlando di due che si incontrano al parco e si scambiano il biglietto, quello ci mancherebbe basta altro. Basta non ricaricare il biglietto con un'aggiunta. No, un conto è che ci sia una questione anche online fra due cittadini, tra due privati cittadini, ma certo che se è organizzata come è organizzato il sistema del secondary ticket, allora in questo caso è evidente la truffa e il bagarinaggio. Certo. Invece se succede fra due persone, questo credo proprio che non ci siano problemi se due persone si scambiano un'informazione, un'iniziativa e se la fanno tra di loro. Certo, è una cosa sconveniente, però ripeto, un conto è due persone che fanno una cosa del genere, un conto è se è organizzato nel circuito secondario della vendita dei biglietti. Trefiletti, credo, caso è chiaramente una truffa. Credo che dipenda anche dal prezzo, se il biglietto te lo rivendo allo stesso prezzo o con pochi euro in più non è una truffa, se te lo vendo al triplo allora è chiaro. È proprio vero che il prezzo fa il fatto. Senta, ecco. Trefiletti, siamo a Natale alle porte, non posso non chiederlo, perché ogni anno in vista dei saldi, in vista degli acquisti di Natale, c'è un qualche tipo di truffa in agguato, oggetti del Natale prima rivenduti nei saldi come se fossero nuovi, eccetera eccetera. C'è qualcosa di cui dobbiamo stare attenti in particolare quest'anno quando andiamo a fare gli acquisti per il Natale, o possiamo stare un po' più sereni? Allora, guardi, è leggermente migliorata la situazione perché la crisi ha fatto sì che non solo i cittadini siano più attenti e per la verità comprano anche di meno, parliamoci francamente, c'è una forte contrazione dei consumi, addirittura nel giro di qualche anno il mercato è sceso di oltre 70 miliardi, quindi non sono noccioline, sono proprio... e naturalmente contestualmente anche i negozianti, gli esercenti o che altro, è chiaro che in un mercato così difficile e complesso tendono a ci pensano a essere... due volte prima di ecco, bravi, è proprio così, ci pensano non due ma quattro volte. C'è un mercato più un pochino più trasparente. Certo, bisogna sempre stare attenti, bisogna, il consiglio che noi diamo è sempre quello di, in questo caso, di avere i circuiti che si conoscono meglio, i negozi che si sono frequentati di più nell'arco dell'anno, meglio ancora sarebbe già verificare i prezzi attualmente e poi vedere sotto Natale come cosa vanno succede? Perché certo. C'è sempre questo rischio di fare qualche avanzata di prezzo, quando soprattutto questo però per la verità in campo alimentare succede. Quindi ci segniamo tutti i prezzi per poi essere sicuri per i saldi di gennaio? Tutti forse no, perché ci vorrebbe qualcosa. Ci vorrebbe un quadernetto, ma insomma quei prezzi che più interessano, insomma, ecco, e allora quello sì, un paio di scarpe, una giacca, un paletò, insomma, altri consigli che noi diamo, per esempio il pesce sotto Natale costa abbastanza, viene a costare un occhio dalla testa. Un consiglio che diamo, lo so che potrebbe fare arricciare il naso, è quello di comprarlo, congelarlo, sul surgelarlo e poi consumarlo per a evitare di prendere la batosta, perché in quei giorni i prezzi salgono. Questo è un consiglio che giustamente lei ha dato, uno poi può seguirlo o non seguirlo, però io per esempio questa cosa non la sapevo, adesso la so. Grazie Trefiletti, grazie per essere stato con noi. E la notizia importante invece è quella della sentenza del Tribunale di Roma sul secondary ticketing, quindi bloccata la rivendita online di prezzi a di biglietti a prezzo maggiorato per il concerto dei Coldplay. Al momento la sentenza vale solo per quel concerto, le due date 3-4 luglio 2017 a San Siro a Milano, ma hai sentito? Speriamo che crei un precedente. Un precedente in questo senso. 800 24 00 24, vi aspettiamo per sentire il vostro commento, se vi ha convinto la posizione di Trefiletti, quindi la sentenza del Tribunale di Roma, nata da ricorso di difesa del consumatore, e anche per le vostre bufale nelle quali vi siete imbattuti sul web. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 8 e 41 minuti. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buon sabato. Allora, andiamo subito con il numero verde 800 24 00 24 e c'è Marco che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, Marco da Roma. Buongiorno. Ciao Marco. Allora, io volevo raccontarvi una bufala che uscì circa 20 anni fa su tutti i giornali più importanti italiani. Sì. Dove parlavano di coccodrilli a New York. Praticamente i newyorkesi amavano tenere dei coccodrillini piccoli in casa, però avendo il problema che questi poi diventavano grandi ovviamente, li buttarono all'interno del water. Sì. E ci fu la bufala che questi coccodrilli avevano infestato le fogne di New York. Credo che tecnicamente questa addirittura venga ormai nominata leggenda metropolitana. Esatto. Senti qua Marco. Questo è Bersani. Complimenti alla regia per la prontezza. I coccodrilli in America vengono fuori dalla doccia, è una leggenda metropolitana, ma in effetti adesso stiamo controllando, pare che ne sia stato avvistato uno nel 1935, è catturato un coccodrillo nelle fogne di New York, cioè adesso abbiamo fatto una ricerca veloce e da lì poi sarebbe nata un po' questa che in effetti è una leggenda metropolitana, una grande bufala e che ogni tanto ritorna, e sicuramente tanta gente magari ci crede, e ci sono i giornali che ci cascano. 20 anni fa, adesso io non lo ricordavo, Marco, tu ti ricordi proprio dei giornali che avevano pubblicato questa notizia? Sì, è una buona notizia, ma a New York fa meno 25, essendo il coccodrillo un animale a sangue freddo non può vivere a meno 25, è possibile. Ecco, vedi? E io, io non avevo mai fatto questo ragionamento. Comunque, però effettivamente bisogna sapere sia il clima di New York sia come vivono i coccodrilli. Ma i coccodrilli vanno di moda tantissimo nelle bufale, perché io me ne ero segnata un'altra, che è questa: avvistato nel mare davanti a Pescara un coccodrillo, è una bufala di quest'estate. Girava una foto anche qua su Facebook, sui vari siti di bufale, e c'era effettivamente un coccodrillo che era foto, però non era il mare davanti a Pescara ma era l'Australia, ed era una foto del 2014, però insomma era stato attribuito a Pescara. Addirittura i giornali scrivevano che questo coccodrillo aveva nuotato per centinaia di miglia in mare causa il riscaldamento terrestre, quindi mari che si erano riscaldati, cioè, era venuto a cercare il fresco. Esatto, grazie Marco, la prima bufala di oggi. Ciao, buona giornata. Grazie, buona giornata. Beh, insomma, concorre sicuramente con questa che è un po' la madre di tutte le bufale, se vogliamo, una delle tante, Marco, alla assegnazione del premio di oggi, che sono ancora una volta i biglietti per la mostra di Basquiat al MUDEC di Milano. Riccardo da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuto. Grazie, buongiorno anche a voi. Io volevo solo segnalare una cosa che secondo me è una grande bufala, sì, che è quella, si parla tanto delle nuove elezioni. Siamo in silenzio elettorale, eh? Attenzione a quello che diciamo. No, assolutamente, non voglio no, dire no, nulla. Prego, riguardo il no, solo una cosa che ovviamente è girata sui social, sul fatto che invitavano la gente a prendere su la biro da casa per evitare poi che con l'utilizzo della matita, che sembra una matita che ti danno i seggi. La matita copiativa. Esatto, e qualcuno diceva che c'è il rischio che poi con questa matita cancellano e segnano il voto che vogliono loro. Secondo me è una grande bufala, anzi, secondo me è malinformazione per il semplice fatto che io penso che se prendo sulla mia biro e segno con la mia biro, in realtà la scheda è nulla. No, è molto più che una bufala, anzi, lo ricordiamo, visto che domani si vota, il voto è valido solamente con la matita copiativa. Ecco. Quella bufala che viene fuori regolarmente quando ci sono delle elezioni, di solito è di quelli che ci tengono o che non si raggiunga no, il quorum no, perché il voto è espresso, ma che non si che vogliono annullare un sacco di voti, perché tutti i voti fatti con una birra portata da casa vengono automaticamente annullati. Quindi avvisiamo. Mi ha tirato in inganno, perché poi leggendo nei commenti c'era scritto: beh, io è da anni che lo faccio e devo dire che ho passato un paio di giorni che la cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Sì. No, e diciamo... deciso di prendere sulla biro e io invece uno che veramente va a votare. Bravo. Poi ci ho pensato, ho detto no, ma sai qual è il motivo? Che il voto non deve essere riconoscibile. Se il voto è riconoscibile perché c'è qualunque altro segno diverso dalla media di tutti gli altri votanti, il voto è riconoscibile, allora viene annullato. Se tu vai lì col pennarello indelebile nero e fai una croce sul no o sul sì, chiaramente è un voto riconoscibile. Esatto. E allora e forse vuoi comunicare a qualcuno che cosa hai votato. Esatto. Forse hai preso dei soldi per fare quel voto. Il motivo è annullato. Però bella questa, Riccardo, che quest'altra bufala che hai associato anzi alla super attualità del voto di domani, e quindi anche lui concorre insieme a Marco per ora al nostro concorso sulle migliori bufale. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, qua siamo andati con il nostro Andrea Piana proprio sul revival, Alphaville, anni 80, cosa sarà? Sì, Paolo Corleone, regia, annuisce, anni 80, Big in Japan. Allora, la notizia che potrebbe quasi sembrare una bufala viene dal Giappone ed è questa: cibo scontato in cambio della patente agli ultra 75enni. Allora, se sia o no una bufala lo chiediamo a Stefano Carrer. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. No, non è affatto una bufala. Sì, diciamo su scala non nazionale, ma sì, alcune prefetture hanno deciso di dare incentivi specifici agli anziani perché restituiscano la patente. Questo perché? Perché gli anziani sono molti del paese, come sappiamo il Giappone è il paese che ha la popolazione mediamente più vecchia, esatto, del mondo. Diciamo che il Giappone guida proprio la classifica dei paesi al mondo dove c'è la più alta aspettativa di vita. E non dici che... guida a caso, direi. Esatto, in questo caso la sì, parola non a è caso scelta. Perché sì, appunto, dipende da vari fattori, eccetera. Ma il problema è che stranamente, possiamo dire, i giapponesi vivono molto a lungo, ma spesso gli anziani hanno problemi mentali, cioè diciamo è diventato proprio un fenomeno sociale quello dell'anziano che è colpito da Alzheimer, è colpito da perdita di memoria, è colpito da forme anche blande di demenza senile, e questo è un problema perché il numero dei guidatori, chi ha la patente oltre 65 anni, sono più di 17 milioni, oltre 75 anni sono quasi 5 milioni. Allora ci sono stati anche di recente una serie di casi per cui appunto questi anziani che appunto non si rendevano bene conto di cosa facevano hanno causato degli incidenti mortali, oppure appunto prendono l'autostrada contromano e così via. Quindi cosa è successo? Alcune prefetture, in alcune prefetture la polizia ha deciso di dare uno sconto, mettendosi d'accordo con delle catene di ristoranti popolari, dare uno sconto a chi restituisce la patente. Oppure ci sono anche altri incentivi, magari non diciamo monetizzabili, diciamo, tipo a Tokyo, ecco, un anziano che restituisce la patente gli danno un bel certificato, si chiama certificato di ex guidatore, che fa anche da carta d'identità. Sto cercando, diciamo. Ma un bel abbonamento per i mezzi pubblici forse sarebbe più gradito. Ecco, però il problema è questo, che il problema è che a Tokyo si può stare senza auto, non c'è nessun problema, è il miglior sistema di trasporti del mondo. Il problema è nelle cittadine, nei paesi fuori, spesso gli anziani hanno bisogno dell'auto per andare a fare la spesa, per andare, e quindi questo, diciamo, complica parecchio le cose. Non è un problema semplice, e comunque, diciamo, gli incentivi, insomma, un po' hanno successo, un po' no. Diciamo, tipo l'anno scorso 270.000 anziani hanno comunque restituito la patente. Beh, non è poco. Correggo solo una cosa, perché dunque nella classifica sulla aspettativa di vita, in realtà, secondo le Nazioni Unite, il Giappone è in testa, davanti fra l'altro all'Italia, con un'aspettativa di 82,5 anni, Italia 82 anni, invece secondo il World Fact della CIA, che è un altro grande fonte di riferimento, c'è Monaco, il Principato di Monaco, davanti a tutti. Ma a parte questo aspetto, giusto per amore dei particolari, no, io immaginavo in Giappone, con questa cultura millenaria, la saggezza giapponese, che ci fosse più rispetto per gli anziani, invece strombazzano tranquillamente nel traffico quando c'è un anziano al volante in Giappone, sì. No, quello direi di no, cioè succede molto molto raramente. Il problema appunto è come gestire gli incidenti che sono realmente causati da questo, dagli anziani. Le compagnie di assicurazione da anni sono disperate, appunto perché già hanno il problema dei tassi bassi, bassissimi, che incide sulla loro redditività. Poi ultimamente c'è stato un aumento esponenziale degli incidenti causati dagli anziani, e quindi poi le assicurazioni devono pagare, quindi è anche una cosa che ha dei riflessi economici. Potevano essere un po' più generosi con questi incentivi, perché uno sconto sulla zuppa non mi sembra proprio che ti invogli tantissimo. Ma vita, tra l'altro ho letto vita, che è uno sconto tipo del 20%, da 590 yen a 500 yen, giusto? Sì, 15%, sì. No? Anche, ma è uno sconto a vita? Cioè, nel senso, per tutta la vita, o è a scadenza? Sì, sostanzialmente, fino a che, diciamo, la catena di ristorazione con cui la polizia si è messa d'accordo è d'accordo, insomma, a farlo. Sì, sostanzialmente sì, insomma. Quindi, comunque, diciamo, perché ci sono tanti anziani poveri in Giappone. Pensate che addirittura, ecco una cosa, perché il Giappone poi anticipa trend sociali che poi avvengono altrove. I furti nei supermercati li fanno più gli anziani dei giovani. Ecco, quindi diciamo, per dire... Diciamo, e poi scappano in macchina, è per questo che vogliono ritirargli la patente. Può darsi, insomma, in qualche caso. Va bene, Stefano Carrer, grazie mille. Insomma, abbiamo capito, questa era la notizia, Stefano Carrer, che normalmente sentiamo in cronache più di tipo finanza e aggiornamenti di notizie più importanti. Questa, che sembrava invece quasi una bufala, l'abbiamo scelta un po' anche per questo, ma in realtà è un si può fare, insomma, perché abbiamo capito che in Giappone si vive tanto, si vive a lungo, però in alcuni casi si invecchia non proprio benissimo, e soprattutto non mettetevi al volante, state tranquilli a casa e mangiatevi una zuppa. Questo è il messaggio che arriva dalle autorità giapponesi, un messaggio che può apparire avvilente, forse, però, più comico direi che comico avvilente. Anche però, se di fronte al grande numero di incidenti stradali provocati da persone di una certa età, che soffrono però oggettivamente, questo Carrello ha ricordato, di malattie senili, è davvero un provvedimento che ha un suo perché. 800 24 00 24, cari ascoltatori, anche in questo caso, se vi ha convinto, chiamateci, vi aspettiamo dopo il giornale radio. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. mansions of glory and suicide machines sprung from cages on highway nine, chrome wheel fuel injected and stepping out over the line. Oh, maybe this town rips the bones from your back. It's a death trap. It's a suicide rap. We gotta get out while we're young. 'Cause tramps like us, baby, we were born to run. Yes, allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, Born to Run di Bruce Springsteen, naturalmente, perché l'hashtag che è stato scelto per la campagna di Amnesty International in occasione dell'anniversario, il 10 dicembre, della firma della Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani, è Corri con me. Il testimonial di questa campagna è un testimonial che non ti aspetti. Chef Rubio, buongiorno. Ah, ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Beh, insomma, no, non ti aspetti, non è vero, perché la tua sensibilità sociale è nota. È nota, ma sta è nota, scherzando, non ce lo si aspettava effettivamente, però noi siamo molto contenti. Dai, anch'io sono stato onorato e lusingato di essere stato chiamato per questa onorevolissima causa. E insomma, sono casi che seguivo, ne sono venuto a conoscenza quando mi hanno chiamato in causa, e sono incredibilmente reali, vicini e tragici, e non dobbiamo minimamente pensare che siano meno potenti solo perché provengono, sì, dall'altra parte del mondo. Insomma, le ingiustizie purtroppo vanno condannate ovunque, di qualsiasi sorta. Beh, io ho detto che non ti aspetti, perché uno chef, uno non si immagina uno chef che normalmente ha a che fare, però io sono uno chef, per le altre persone sono un essere umano con tanti interessi, e insomma sono contento di potermi vendere e spendere per tante assolutamente cose, che ce n'ho. Anche perché tu con i tuoi programmi, ma anche con i libri, adesso uscirà un film addirittura su Unti e Bisunti, per chi ti segue, racconti storie fondamentalmente, racconti storie. E che storia è questa qua dei diritti negati? Cioè, fra l'altro ce ne sono tante, adesso le racconteremo alcune di queste, c'è Giulio Regeni. Sono storie incredibili, perché se io fossi nato in uno di quei paesi sicuramente non sarei qui al telefono con te a parlarne per indole. Anche la minima ingiustizia mi ha sempre dato fastidio. E una signora è una proprietaria terriera dove dovrebbero passare dei giacimenti di rame e oro, e una multinazionale lavorerebbe. Massima Acuña, voglio leggerla, perché sì, questa, tra l'altro, questa signora è una contadina che ha ricevuto delle pressioni, ma anche delle minacce per cedere la sua proprietà. Prendono botte i figli quando vanno a scuola, e lei non si può allontanare dalla casa, perché è come se una volta che si allontanasse la occuperebbero quelli della multinazionale. Insomma, un dramma giornaliero che noi però non conosciamo, e quindi sarebbe bene che denunciassimo, perché è successo in passato e succederà anche questa volta, che se si denuncia con delle firme, i potenti sono costretti a mettere la luce di ingrandimento, la lente di ingrandimento sopra quel caso. E assolutamente. Questa signora, tra l'altro, Massima Acuña, ha ricevuto il premio Goldman 2016, che è lo stesso che ha ricevuto il nostro amico Rossano Ercolini, riconoscimento di uomo ambientale dell'anno. Lui era ricevuto l'anno prima e lei l'ha ricevuto quest'anno. Che è il più importante riconoscimento internazionale per l'ambiente. E nonostante questo premio, questa signora è sottoposta a delle pressioni tremende. Non è potuto venire all'incontro con Amnesty, insomma, purtroppo non si la sta passando bene. Senti, ma c'è questa storia, c'è quella di Giulio Regeni, per esempio, che riguarda proprio... Neanche quella che ci ha toccato le coscienze più da vicino le ha stravolte, ci ha poi portato a noi, ai nostri governatori, quelli che ci governano, a indagare oltre la morte, oltre agli interessi economici che ci sono fra Italia e Egitto. Insomma, ci fermiamo sempre alla notizia che ci sciocca e poi dopo non andiamo mai avanti, quando invece è un dramma che ha portato alla luce 3-4 sequestri al giorno in Egitto. Senza Giulio non si sarebbe saputa questa cosa, e insomma andrebbe analizzata a fondo e supportata la famiglia finché ce n'è. L'obiettivo di questa campagna, lo ricordiamo, è raccogliere delle firme fondamentalmente. L'anno scorso, con un'analoga campagna, sono state raccolte quasi 4 milioni tra firme, lettere, email, fax, tweet. Vale tutto naturalmente per questa maratona globale delle firme per Amnesty International. Tu dicevi giustamente: se io fossi nato in uno di questi paesi non sarei qua a parlare con voi al telefono. La storia di Giulio Regeni, voglio ricordare solo questa, invece è proprio la storia di un ragazzo nato in un paese nel quale certe cose non accadono, che invece qualcuno è andato a cercarsela, no? È andato a... era un ricercatore, all'estero a fare qualcosa. Purtroppo quella sera non doveva uscire perché c'era brutta aria e doveva andare a una festa d'amici e niente, noi ci andiamo, ci arriviamo, ci torniamo sbronzi, lui non c'è mai arrivato. Certo. E, Rubio, tu sei stato tra l'altro scelto come chef per la partecipazione dell'Italia alle Paralimpiadi, anche questo onore ti è toccato. Com'è andata anche questa esperienza? Vogliamo dirlo? Benissimo nel complesso, perché sono ritornato, ancora devo capire bene le emozioni che mi hanno toccato quando ero giù, che purtroppo ho vissuto in maniera confusionaria, visto 17-18/19 ore al giorno di lavoro, e ancora devo sbobinare, però è stato incredibile lottare per portare qualche pasto presentabile ai ragazzi che venivano a Casa Italia per festeggiare delle medaglie, oppure magari per dimenticare magari un oro, un bronzo perso per qualche centesimo. Quindi insomma è stata un'esperienza incredibile, anche nelle pause andare nelle favelas a fare le lezioni di cucina. Abbiamo pochissimo tempo per parlarne, però è stata veramente un'esperienza. Sì. No, io te l'ho chiesto anche perché in effetti il bilancio delle Paralimpiadi italiane è stato molto buono, siamo arrivati al nono posto. Non è merito della mia cucina, però, no, però volevo dirlo, era un'occasione anche per dirlo, perché in effetti poi si è parlato di alcuni personaggi in particolare, grandi figure tipo Bebe Vio, altri che hanno Zanardi, insomma, che ci hanno proprio illuminato con le loro storie le nostre vite, ma volevo appunto dire questo, siamo arrivati al nono posto con 30 medaglie, due in più di quelle ottenute dalla nazionale olimpica. Fantastici, no, sono stati incredibili, ragazzi. Poi poter parlare con naturalezza dei loro handicap e capire che ci sono degli argomenti che vengono toccati con la stessa leggerezza con cui noi tocchiamo, ho camminato con la scarpa slacciata, è stato fantastico. Mi ricordo Martina Caironi, che quando ha vinto l'oro poi mi ha detto: "Ah, Gabriele, mi si stava sganciata la gamba, c'avevo una paura di non arrivare al traguardo perché sentivo la cosa", e quindi ha rallentato. Insomma, sono piccoli dettagli che retroscena, che è bello sapere e capire quanto i veri problemi siano altri. Allora, voglio ricordare ancora, poi se hai ancora qualche minuto per restare con noi, dobbiamo fare una pausa sul traffico e torniamo tra un attimo, però... Ci sono, Bravo, oh. Resta con noi. Allora, gli altri testimonial di questa campagna di Amnesty International sono Valerio Mastrandrea, proprio per il caso di Giulio Regeni, Piero Pelù per il caso di Edward Snowden, poi c'è Piotta, c'è Tosca per la storia che abbiamo raccontato prima, di Maxima Acuña in Perù. Ho dimenticato qualcuno? Sì. Gabriele Giorgio del Trio Medusa. Esatto, sì. Per la storia di Mantoti in Cina. Ci fermiamo per il traffico, poi continuiamo a parlare con Chef Rubio di diritti e di, perché no, anche di cibo di strada, street food, che adesso va tanto di moda. Tu sei una delle persone che ne ha parlato per primo in Italia. Vai. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Sentirsi con papà senza santi da pregare. Si può fare ed avere tanti soldi da poterseli rubare. Si può fare. Eccoci qua, 9:19 minuti. Ben ritrovati, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ed ecco noi Gabriele Rubini, in arte Rubio. Tu non ami essere chiamato chef, hai detto? Cioè, sì, perché in realtà sei chiamato Chef Rubio. No, mi sono autonominato tanti anni fa Chef Rubio in maniera ironica, ricordando Chef Tony, quello di Michael Blade, e il mio cognome Rubini è sempre stato stalkato dagli amici di Rubio, ecco qui che è nato Chef Rubio, e poi dopo il resto è... Il tuo marchio di fabbrica in realtà è questo, Unti e Bisunti. Sì, è stato... stato un lavoro incredibile, che ha mostrato più che i piatti le persone che fanno i piatti. Insomma, è stato un viaggio socio-antropologico molto interessante, che fortunatamente alla fine delle tre edizioni è stato capito, e spero che, insomma, le persone ritratte in questi episodi possano aver smosso le coscienze su quanto stiamo perdendo di tradizione, su quanto di cibo di strada c'è e si può tutelare invece di scimmiottare magari la western culture o il fast food. Che cosa? Il western calcio, la cultura dell'Ovest, diciamo, quella americana. Sì. No, mi è piaciuta questa citazione che viene così, cioè in mezzo al tua inflessione romanesca, questo western culture che io ignoravo completamente. E adesso hai anche scritto un libro che esce per Rizzoli, che si chiama Le ricette di Unti e Bisunti, e ha uno dei sottotitoli credo più calorici della storia delle librerie: dagli involtini di salsiccia ai bomboloni fritti. Considera che è sabato mattina, quindi non farci venire troppa fame, ma ci parli di questo libro? Parlerò del fatto che non ho scritto, ma abbiamo raccolto le 130 ricette di Unti e Bisunti. Quello che ho scritto semplicemente all'inizio di ogni macro concetto è un'impressione, un'emozione, qualcosa che magari mi è avvenuta dalle puntate, quindi ci sono un sacco di racconti più o meno intimi, molto intimi di ciò che penso o di quella materia o di cosa mi ha evocato. Quindi sono 130 ricette facilissime che però è bene avere a mente e sotto mano, soprattutto magari durante le vacanze di Natale, perché è una scusa come un'altra per riallacciare poi eventuali rapporti in famiglia e magari buttarsi insieme a fare una ricetta. Anche perché le tue ricette non è che sono cose che uno può improvvisare a cucinare, che ne so, la murena fritta o la milza o il lampredotto, cioè fai delle robe veramente fantastici, quelli di Harry Potter, sì. Le lumache, l'intestino di pecora, cioè non ti sei fatto mancare niente, cibo estremo proprio nel tuo caso. Sì, no, vabbè, ci sono anche delle pietanze commestibili per vegetariani, per le altre creature fantastiche, quindi ce n'è per tutti. I vegetali. Ecco, che ne pensi di questa cosa che sta emergendo, tante persone che scelgono la dieta vegana o anche semplicemente vegetariana, o anche più semplicemente del cibo sano, cibo senza, no? Di cui si parla, senza grassi, sì, senza zucchero, senza tutto. È giusto, una è moda giusto o no? È giusto che ci sia conoscenza degli alimenti, conoscenza delle tecniche di cottura, poi ognuno le applica in base alle chilocalorie che spende nell'arco della giornata come meglio crede. Ci sono persone che con un pasto vegetariano vegano sverrebbero dopo mezz'ora, e tu sei uno di quelli, credo di capire. Hanno bisogno di pochissime fibre, sì, carboidrati, e va bene anche quel tipo di dieta, dieta inteso come modo di mangiare. Quindi non ce ne siamo in 8 miliardi, siamo in troppi in questa terra, quindi ce n'è per tutti. Però quello che fai tu, il cibo di strada, no? Lo street food, adesso è uscita questa espressione, è invece tipicamente un cibo abbastanza aggressivo. C'è un motivo secondo te? Cioè, non è che sono piatti arcaici, sono piatti della fatica, c'erano dei motivi per cui ci sono stati diversi motivi per la loro nascita, e purtroppo la scomparsa non vuol dire che non siano utili per ricordarci chi siamo oggi, ma insomma dovremmo tutelare la nostra identità, più la nostra identità che andrebbe tutelata, non tanto il singolo piatto. Tu che sei un cuoco veramente di strada da questo punto di vista, però ho letto da qualche parte, adesso non trovo più, che hai tenuto hai tenuto a battesimo l'Accademia del Cibo di Strada o qualcosa del genere, no? Ma non è un controsenso che si crei un'Accademia del Cibo di Strada, che invece dovrebbe essere... No, quello non è un'Accademia, anche pure da rivedere, perché ci sono stati dei problemi che non sono dipesi da me, e è un luogo dove le persone senza un'occupazione o disoccupate hanno modo di imparare come gestire un eventuale loro business che sia rivolto alla strada, quindi aprirsi un chiosco di, per fare i panini con la milza, se fino all'altro giorno la signora ha fatto la sarta, però ha sempre avuto la passione per la cucina, magari gli spiegano due cose per essere inattaccabile su tutta la filiera e vendere un prodotto buono e che ricordi appunto quel tipo di piatto che si va a vendere sul carretto. Questo è un esempio, ma insomma è più un modo di dare un lavoro, non assolutamente dire se frigge con lo strutto piuttosto che con l'olio di semi, insomma non è questa la prerogativa. Una ricettina per Natale, però te la voglio chiedere, c'hai qualcosa? Il bombolone fritto, vuoi il bombolone fritto? Il bombolone fritto pieno di lumache e di milza, no, perché ci mettiamo dentro? No. Tu dici compratevi il libro e non mi rompete le scatole. Chi è ipercalorica, quindi in ogni caso sicuramente sono certo che si troveranno delle ricette tagliagambe, però io a Roma, comunque in famiglia, la vigilia a pesce, ci sono spesso delle pietanze non troppo ipercaloriche. Il giorno di Natale sì, la gente si viene dopo pranzo, perché comunque fra pasta al forno, cannelloni, abbacchi, patate, e coratella, chi ne più pinati ne metta, insomma c'è da svenire. Direi che ricette taglia gambe potrebbe essere il titolo del tuo prossimo libro. Ti aspettiamo. Mi sembra perfetto, le ricette taglia gambe. Bene, grazie a Gabriele Rubini, chef Rubio. Grazie ciao. Mille. Grazie per essere stato con noi. E allora, ricordiamo però la notizia a cui siamo partiti, la campagna di Amnesty International Corri con me, la maratona per i diritti 2016, in occasione dell'anniversario, il 10 dicembre, della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 800 24 00 24. Adesso che succede? Intanto mi sono dimenticato di dire una cosa, che chef Rubio stasera sarà alla Festa della Rete, perché a Milano oggi c'è la Festa della Rete, che di solito ne abbiamo sempre parlato, perché ci sono andato spesse volte, e finalmente arriva a Milano. È stata a Rimini negli ultimi anni, prima arriva del Garda. Io sono candidato per un Tweet Award, per un Macchia Nera International Award. È già un po' che no, Macchia Nera Internet Award, chiedo scusa. È già un po' che non mi parli di Snapchat. Adesso sento un po' non la sono candidato per Snapchat, ci sono bravissime questo persone, nome che fa paura, che sono candidate paura per Snapchat, tipo Tegamini, che salutiamo, che è bravissima. Allora, ascoltatori in linea, ci risentiamo tra un attimo, facciamo una pausa, poi torniamo. Ascoltatori, crowd me up. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è I Don't Wanna Grow Up di Tom Waits, Non pezzo. Voglio crescere, concordo in pieno. È una canzone che ci è stata suggerita da Marco Bo e ce l'ha consigliata su Facebook. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca dei Si può fare in musica, quindi se siete dei compositori, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e in una musica vi sembra di trovare bene espresso il concetto di Si può fare, vi chiediamo di comunicarcelo, di mandarcelo, così noi la faremo sentire e la metteremo sui nostri sul nostro sito e sulla nostra pagina di Facebook. Potete inviarci i vostri consigli e i vostri Si può fare in musica appunto alla mail si può fare @radio24.it, oppure sui nostri profili social su Facebook si può fare /radio24, oppure su Twitter @si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio di Twitter è @CarloGabardini, e c'è anche il mio @AleMaurizzi, e allora, poi c'è sempre quello di Snapchat, appunto, come dicevi tu. Snapchat, fa paura Snapchat. Allora, Allora, sulla questione delle bufale che vi chiediamo questa mattina di raccontarci, quelle nelle quali vi siete imbattute, ci sono la terra piatta o l'avvistamento delle pantere, ci scrivono su WhatsApp. Poi il solito nostro ascoltatore assiduo e anche twittatore, direi, in defesso, Roberto Corti, che dice: per la bufala sono indeciso, è bella questa, tra l'esistenza di Dio e le risultanze della commissione Warren. Ora, non vi offendete, cari amici cattolici e credenti all'ascolto, è una battuta questa naturalmente, però non è male. La commissione Warren è quella sull'omicidio di Kennedy, che quella è una bella bufala. Va bene, 800 24 00 24, tra poco vi aspettiamo, abbiamo già degli ascoltatori in linea che giocheranno con noi anche sul Cloud Me Up. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora è tornato il momento di presentarvi due progetti, due iniziative che chiedono l'aiuto nostro, l'aiuto degli ascoltatori, di possibili finanziatori. Così funziona il crowdfunding in collaborazione con Apple e Back to Work 24, e abbiamo già i nostri giurati in ascolto, che sono, allora, sono tre ascoltatori. Sono Marcus dalla provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che buongiorno. Voleva magari intervenire anche sulla bufala. Qual è la tua bufala? Esatto. Vai, Marcus. Sì, sì, sì. Allora, no, è veramente carina questa. Io sono il sindaco di un comune, Valvasone Ardena, che è nato dalla fusione tra due paesi, Valvasone e Ardena, appunto. E ad Ardena c'è una, diciamo, c'è stata una certa contrarietà alla fusione, e tra l'altro c'è un'arena in fase di completamento che qualche buon tempone ha pubblicato su qualche sito la possibile presenza dei Coldplay il prossimo anno a luglio. E i biglietti sono andati esauriti subito, immagino, visto che si parla di Coldplay. La cosa incredibile è che se voi andate adesso a digitare Valvasone Arden e Coldplay luglio 2017, troverete addirittura dei siti che rivendono i biglietti. Io, quindi la cosa c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Allora, magari poi alla fine vengono veramente. Esatto, secondo me vengono, attenzione. La bufala in salsa locale ci voleva. Grazie Marcus, resta con noi, perché tra poco ti chiediamo di giudicare i due progetti che sono di cui tra poco vi parleremo, e che sono un progetto che ha a che fare con un archivio fotografico importante, e invece con un'iniziativa che riguarda la disabilità, anche perché oggi è la giornata mondiale della disabilità. Andrea da Padova, anche te buongiorno, benvenuto, il nostro giurato. Sì, buongiorno. Niente, non so se ricordate la bufala del Modigliani ritrovato nel canale di Livorno. Tutti i vari studiosi dissero che era originale, certo. Poi uscirono quei ragazzi che l'avevano fatto con era uno scherzo, un colossale scherzo. Le teste di Modigliani. Sì, era un colossale scherzo, bellissimo. Esatto, fenomenale. Questo sì, a Livorno questo ed altro. Niccolò da Roma, buongiorno. Buongiorno, sono Gianni da Roma. Io come bufala volevo evidenziare il fatto che statisticamente dicono sempre che c'è un numero alto di giovani che non cerca più lavoro. Io sono un ex dipendente dei centri per l'impiego e devo dire che purtroppo non è così, cioè ci sono ragazzi che, poveracci, vengono lì da anni, è logico se dopo 4-5 anni che vieni tutti i giorni lì a cercare lavoro e non lo trovi, giustamente non ci credi più in queste situazioni. Voglio questo, non è perché non mi va di lavorare, non esiste, oggi fanno tutto, ragazzi. E qui tu hai scelto come bufala questa, cioè hai voluto in qualche modo un po' rovesciare una evidenza che insomma, disoccupazione giovanile c'è in effetti. Siamo fuori dal campo della bufala, direi, siamo quasi in direzione della menzogna, nel senso non è vero che i giovani non stanno cercando lavoro, in realtà lo cercano, però come giustamente stava ricordando l'ascoltatore, sono demoralizzati e quindi poi nelle statistiche entrano fra quelli che ne manco più lo cercano, perché dopo 5 anni si sono stufati. Caro Nicolò, grazie anche a te, resta in linea perché tra poco sarai anche tu uno dei tre giurati per il Cloud Me Up, e poi naturalmente alla fine della puntata sceglieremo anche qual è la bufala che ci ha convinto di più, che ci ha fatto ridere di più, a cui andranno i biglietti di Basquiat, Mudec di Milano. Adesso cominciamo però a presentare i due progetti di crowdfunding. Il primo progetto si chiama Trendy. Oggi è la giornata mondiale della disabilità. Abbiamo scelto di presentarvi Trendy, un progetto che ha l'obiettivo di sviluppare le competenze tecniche necessarie per sviluppare una linea di abbigliamento accessibile. L'idea è quella di formare stilisti e sarti che sappiano progettare abiti rispondenti alle esigenze specifiche, appunto, delle persone disabili, creandoli da zero o modificando quelli esistenti. Il progetto è sostenuto dalla Onlus Pianeta Elisa e si è posto l'obiettivo di raccogliere 10.000 euro proprio sulla piattaforma Eppela. Ce ne parla uno degli ideatori. Buongiorno a Bernardo Banci. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, in un minuto, poco più, Bernardo, per raccontarci perché dovremmo sostenere il progetto Trendy. Bene, allora, voi sapete tutti che chi è diversamente abile spesso ha dei problemi di mobilità enormi e vestirsi è un problema veramente enorme. I capi d'abbigliamento che solitamente vengono usati sono pratici, come le tute da ginnastica, ma svilenti e non fanno altro che evidenziare la diversità di queste persone che già hanno dei problemi. Parliamoci chiaramente, voi andreste mai a una festa vestiti in tuta da ginnastica? No, Trendy affronta, no. Esatto, Trendy affronta il problema partendo da un presupposto diverso: vestire queste persone con capi gradevoli alla moda, ovvero dargli la libertà di scegliere il vestito alla moda del momento e di apportare poi delle modifiche per renderli indossabili in modo facile, anche se sei su una carrozzina o anche quando possibile renderlo indossabile senza l'aiuto di altre persone. E questa è una cosa importantissima per la propria autostima e per migliorare anche la loro vita sociale. Trendy si rivolge non solo ai diciamo diversamente abili, ma anche ai disabili temporanei e ai diversamente giovani. Certo. Ovvero, faccio un esempio, chi ha subito un trauma come una frattura o un intervento, o alle persone che con l'avanzare dell'età hanno problemi giustamente di mobilità. Benissimo, benissimo. Abbiamo esaurito il minuto. Ma le volevo chiedere, ma com'è che funziona il progetto? Cioè, com'è che vengono finanziati questi stilisti? Allora, questi stilisti, appunto, noi stiamo raccogliendo appunto questi soldi per creare delle linee sia basic che linee praticamente modificabili sia su richiesta specifica, diciamo, degli utenti, quindi diciamo delle persone, e in modo tale che queste persone riescano ad avere questi abiti e automaticamente a generare il giro d'affari necessario. Cioè, quindi proprio su misura per, cioè, un disabile. Esatto, è un tailor made, se vogliamo chiamarlo in questo modo. Certo. Cioè, la persona va in, compra un qualsiasi vestito, faccio un esempio, un giubbotto, e chiaramente una persona su una sedia a rotella, sapete benissimo che ha un problema enorme per infilarsi un giubbotto, e noi praticamente possiamo applicare delle soluzioni molto particolari. Io cerco di semplificare al massimo, renderlo apribile dal posteriore e, certo, anche le maniche stesse, permette di infilarsi un giubbotto molto carino alla moda, senza dover, diciamo, anche umiliare un po' una persona che deve essere magari tolto dalla carrozzina. Certo, questo è molto chiaro, il progetto è molto preciso. Bene, grazie Bernardo. Adesso è il momento di presentare il secondo progetto. Cari ascoltatori giurati, Marcus, Andrea e Nicolò, restate belli concentrati perché vi presentiamo il secondo progetto, il cui nome dice tutto. Si chiama Salviamo l'archivio carbone. È un archivio fotografico composto da circa 500.000 negativi che sono stati scattati a Napoli tra gli anni 20 e gli anni 70. Quindi una memoria, un patrimonio storico che con il tempo però si sta deteriorando. E per questo l'associazione Riccardo Carbone vuole digitalizzare le immagini rendendole disponibili a tutti con un catalogo online. Però per farlo serve tutto l'aiuto possibile. Ce ne parla Maurizio Imparato dell'associazione Riccardo Carbone. Buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno. Allora Maurizio, anche a te un minuto, poco più, per convincere gli ascoltatori a sostenere questo progetto. Sì ragazzi, noi stiamo realizzando un sogno: salvare la memoria fotografica di Napoli, perché così come dicevate voi c'è un luogo nel quale abbiamo 500.000 scatti, quindi abbiamo l'album di famiglia di tutto ciò che è successo a Napoli dal 1920 al 1970 e vogliamo renderlo disponibile a tutti, quindi aprire l'archivio, far trovare in rete a tutte le persone le proprie immagini. Vi racconto un piccolo aneddoto: che ieri c'è stato un articolo sull'Huffington Post dove abbiamo mostrato una foto degli anni 40 ed una persona ci ha scritto su Facebook dicendo: meraviglioso, questa è la fotografia di mia madre quando aveva 14 anni. Bellissimo. Tutte queste memorie rischiano di essere perdute e vogliamo quindi rendere disponibile l'archivio a tutti. È partita una enorme azione di supporto da parte di chiunque su Napoli, quindi adesso siamo praticamente sollevati dall'amore di tutti quelli che vogliono che queste memorie vengano aperte e chiediamo quindi il vostro supporto nel continuare. Il più grande Instagram su Napoli di sempre. Mi sembra un progetto bellissimo. Ma ci dici chi era Riccardo Carbone? Certo. Riccardo Carbone è il primo fotoreporter del Mattino, il giornale storico di Napoli, che dal 1926 ogni giorno andava in giro per la città, quindi per il Mattino, a riprendere tutto ciò che è successo. Quindi abbiamo foto di Gemito, Hemingway, prima avete parlato di Kennedy, abbiamo l'ultimo servizio fotografico di Kennedy che è stato fatto prima di essere ucciso, lui era a Napoli ad inaugurare la base NATO. Beh, direi che con questo potremmo anche chiudere la puntata di oggi con questa notizia incredibile. Va bene, allora grazie anche a Maurizio Imparato. Dunque, questi sono due progetti, l'archivio fotografico di Napoli, un progetto che, come ha detto Maurizio, cerca di salvare un sogno in qualche modo, invece il progetto molto pratico, molto importante, Trendy, cari ascoltatori, per dare una vestibilità anche alle persone disabili. Marcus, dalla provincia di Pordenone, prima a cui chiudiamo il giudizio, quale dei due progetti, Marcus, ti ha convinto di più? Allora, sono tutti e due veramente interessanti, penso che la disabilità sia un qualcosa che tocca comunque tutte le comunità, quindi il progetto Trendy. Ok, per la trasversalità in questo caso del progetto. Grazie Marcus. Niccolò da Roma, buongiorno. Buongiorno, anch'io sono d'accordo con Marcus e anch'io dico la stessa cosa, perché la disabilità è una cosa abbastanza importante e va in qualche modo gestita, aiutata. Quindi due voti per il progetto Trendy. Quindi tocca un po' tutti questa questione della disabilità. Il terzo giurato ce l'abbiamo, è caduta la linea? No, è caduta la linea, quindi ci ha lasciato. Vabbè, abbiamo due voti sul progetto Trendy, mi sembra. Però di capire. Ricordiamo che non è che si vince, certo. Quindi l'altro progetto compariranno entrambi i progetti, non è che c'è da scegliere fra disabilità e memoria di Napoli, scegliamo entrambi tranquillamente, si trovano tutti e due i progetti sulla piattaforma di Eppela. E noi ringraziamo i due rappresentanti, Maurizio Imparato dell'Archivio Carbone e Bernardo Banci di Trendy, grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per i vostri progetti, speriamo che raggiungiate i vostri obiettivi. Con Cloud Me Up ci risentiremo la settimana prossima, adesso ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Cloud Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercandoti in zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo. Yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche se a volte non ci credo. Vuoi andare a casa? La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. E allora, questa è la mia casa, i Jovanotti, perché la bella notizia che vogliamo darvi è che, ricordate la storia della libreria di Taormina, l'unica libreria nella città siciliana città che ospita tra l'altro un festival letterario. Tao Book è incredibilmente l'unica libreria nel raggio, è anche l'unica libreria nel raggio di 50 km. Stava per chiudere, anzi in realtà era dovuta chiudere perché non riusciva a pagare l'oneroso canone di locazione. Aveva chiesto una mano al comune per trovare un altro spazio alternativo per pagare un canone un pochino meno oneroso e così non chiudere l'unico presidio letterario di tutta la meravigliosa città di Taormina. Ecco, forse una casa l'hanno trovata. E forse non dal comune, pare dalla regione, giusto? Pare dalla regione, questa sarebbe la notizia, è che la regione Sicilia avrebbe trovato uno spaziettino, naturalmente, che affitterà alla libreria Bucolo di Antonella Ferrari e della mamma Santina Bucolo, in Palazzo Ciampoli, che è un palazzo storico di Taormina, chiuso per tanti anni, adesso dovrebbe essere conclusa la ristrutturazione, e dovrebbero trovare uno spazio anche per loro. Noi abbiamo subito convocato Antonella Ferrari per essere con noi, però siccome la titolare della libreria, che ci ha raccontato la storia tempo fa, non più, c'è ancora l'ufficialità, allora lei ha detto no, aspettiamo un attimo, perché sai, giustamente. Rimasta scottata in passato per questa storia che è veramente paradossale. Ricordiamo tra l'altro che Taormina è stata scelta da Renzi per ospitare un G8 e sarebbe stato veramente incredibile un G8 senza un libri G8 senza libri non si può immaginare. 800 24 00 24 cari ascoltatori, è il vostro momento. Fabio da Vicenza, buongiorno. Fabio, buongiorno. Eccolo qua, su cosa volevi intervenire, Fabio? Sì, riguardo alle bufale volevo segnalarne una. Sì, prego. Che qui a Vicenza hanno costruito un presunto anfiteatro chiamato Porto degli Angeli e sfacciato per un luogo archeologico risalente al periodo ellenistico. Ma costruito quando? Ultimamente? Esatto, costruito in realtà negli ultimi anni e senza nessun tipo di permesso. Ma in che senso viene spacciato per un luogo antico? In che senso? Chi è che fa? Nel senso che l'hanno pubblicizzato nei siti web e negli spazi dei giornali come un luogo, un sito archeologico riscoperto, e quando in realtà insomma, era tutto finto, diciamo. Ci incuriosisce molto, perché riuscire a costruire un anfiteatro abusivo, cioè lei dice addirittura senza permessi, hanno costruito un anfiteatro abusivo e poi hanno detto di averlo scoperto, immagino. Allora, esatto, sì. Allora io sto googolando la notizia, sequestrato il teatro, finalmente, Arcugnano sotto sequestro. Anfiteatro Marittimo Berico. Sì, un attimo, sto leggendo, infatti, sotto sequestro l'anfiteatro Marittimo Berico, dopo la denuncia arrivata, credo, alcuni cittadini, bla bla bla bla bla, e la notizia quindi c'è. La bufala consisteva nella fase precedente in cui è stata autorizzata la costruzione di questo anfiteatro, che evidentemente era abusivo, perché dopo la denuncia è scattato il sequestro. Quindi questa più che una bufala è proprio una, come dire, un abuso edilizio. Sì, non saprei. Beh, insomma, comunque ci stava. Però mi sembra interessante in un paese come l'Italia, che ha tantissimi beni culturali, che non riesce nemmeno a star dietro a tutti, di costruirne anche di nuovi spacciandoli per vecchi. Mi sembra che abbia del genio, ecco. Qua siamo comunque un po' al di là della vicenda delle bufale, siamo proprio nel solco tradizionale italiano del classico abuso edilizio. Manuela, sei in veste di notaio, quindi sì, Alessio. Sì. No, voglio dire che abbiamo già degli altri interventi più nel solco di quello che abbiamo richiesto noi, e secondo me Fabio, vediamo poi alla fine se verrà estratto o no. Manuela dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, sono io. Eccola qua. Volevo dare la mia, diciamo, il mio sostegno. Innanzitutto sono una signora che è venuta qui a Borgo San Lorenzo da 4 anni. Sì. Sono venuta a contatto con il Borgo di Elisa e a sostegno di loro, perché io sto cercando di dargli una mano, di aiutarli naturalmente nelle mie possibilità, e confermo quanto detto, è un progetto meraviglioso, stanno dandoci da fare molto. è un posto veramente di eccellenza, nel quale tengono le persone in una maniera stupenda, e se potrò aiutarli anche nel cucire e nell'aiutarli nel preparare questi abiti per questi giovani, cerchiamo aiuti, e quindi sostengo fortemente, perché è una cosa meravigliosa. Tutto quello che volevo dire è datevi da fare e vi grazie ringrazio. Manuela, lei ha chiamato per sostenere il progetto Trendy, di cui abbiamo parlato poco fa nella rubrica sul crowdfunding, quindi grazie, ci conferma insomma che la Onlus Pianeta Elisa sta lavorando su questo aspetto. Benissimo. Che è un aspetto bellissimo, perché sì, di solito ci si occupa appunto dei problemi, di quelli più evidenti, e si pensa che uno, siccome è disabile, allora non è interessato ad essere anche elegante, e mi sembra un atteggiamento stupido. Quindi mi sembra invece un atteggiamento molto intelligente quello di dire: è importante anche quello, è importante anche che se vuole uno vuole mettersi proprio quel giacchino lì, che si faccia in modo che possa metterselo, non che siccome sei disabile va bene la tutona. Certo. Allora, siamo quasi in chiusura e dobbiamo dire chi vince, chi si porta a casa i biglietti della mostra di Basquiat al MUDEC di Milano. Abbiamo avuto diverse telefonate per quanto riguarda le bufale quest'oggi, ne sono arrivate parecchie, da quella dei coccodrilli nelle fogne di New York, ma la nostra scelta ricade su, io direi che possiamo premiare l'ascoltatore che ha parlato della scheda elettorale, dell'andare a votare con la penna. Con la penna. Perché mi sembra una bufala troppo di attualità. È precisa, scattare. Precisa. Sì. Neanche meno di 24 ore prima dell'apertura non dei andate seggi, a votare con la penna seggi, perché avete paura che vi cancellino il voto, perché questa è una bufala del tubo, e non andate neanche con l'evidenziatore, col pennarello indelebile, andate, basta, vi danno la matita, state sereni. Però pensa che ogni volta questa bufala circola, e assolutamente quindi, grazie a Riccardo per avercela ricordata, si porta a casa i biglietti della mostra di Basquiat al MUDEC di Milano. È tutto. Però deve presentarsi con delle birre ovviamente alla mostra di Basquiat. Perché? Perché appunto deve uscire di casa portando la biro da casa, come per andare a votare. Ah certo, quindi deve confermare la bufala. Bravo Carlo, grazie, tutto. Noi ci risentiamo domani. Un ringraziamento come sempre ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, oggi Paolo Corleone in regia. Appuntamento a domani, 8:30-10. Grazie a tutti e soprattutto a chi ci ascolta in podcast. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buona giornata.